si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. In assemblea a marzo del 2015 siamo stati la prima città a dare un esempio di buon governo di tutto il paese, la prima città metropolitana a votare il bilancio. Abbiamo avuto registrato, rispetto al bilancio che abbiamo votato nel marzo del 2015, maggiori entrate per 86 milioni di euro. L'ottimista è il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Buonasera a tutti, cari ascoltatori. Ben ritrovati, benvenuti a questa edizione luglio-agostana di Si può fare, 18, 20 e 30, tutte le sere, in sostituzione della Zanzara, l'attualità, tutte le sere con i vostri interventi, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, anche con un pizzico, perché no, di buone notizie, ce le portiamo dietro dalla trasmissione del weekend. Siamo partiti con l'ottimista, con un po' di ironia naturalmente, poi lo dite a noi, noi siamo super ottimisti, siamo il programma dell'ottimismo, siamo così ottimisti che non lo so, Renzi in confronto è un menagramo, che ne so, Jovanotti è depresso in confronto a noi da quanto siamo ottimisti. Vabbè, però insomma bisogna vedere l'ottimismo di Marino quanto durerà, perché deve presentare la nuova giunta, lo sapete, una riorganizzazione dell'amministrazione della capitale alle prese con una marea di difficoltà. Alcune, diciamolo, non sono tutte da imputare alla gestione di Marino, perché insomma le buche per strada o il caos dei trasporti sono cose che questa città si trascina da anni, forse da decenni, però il sindaco è lui e una risposta la deve dare lui, tanto che dal Nazareno, dal PD, non arrivano, diciamo, come dire, grandi aperture di disponibilità, lo sappiamo. Marino ha 24 ore di tempo per risolvere praticamente tutto, altrimenti il sottinteso è se ne va a casa. Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, PD. Se guardo alla Roma dell'oggi, la cosa che davvero non si riesce a capire è perché A, non possa essere pulita, diciamo abbastanza pulita come le altre capitali d'Europa. Secondo, non si capisce perché non si debba considerare la pulizia, le buche per strada, una priorità dell'amministrazione di questa città, prima ancora di tantissime altre cose, perché... Il sindaco del PD comunque, Ah beh, il sindaco è il sindaco della città, che sia del PD o un altro, il problema è che bisogna tenere la città pulita. Con l'hashtag Roma sono io, ma potete utilizzare adesso anche Si può fare come hashtag. È stato Alessandro Gassman a lanciare insomma questa idea, questo appello, diciamo tra virgolette, rimbocchiamoci le mani noi tutti cittadini, anche se lui adesso è, credo, in Uruguay a girare un film con Rocco Papaleo, ma insomma chi frequenta la capitale sa che Gassman è uno che normalmente partecipa alle cose, si dà anche da fare, quindi va preso così, diciamo, anche in maniera credibile, coerente con il personaggio, questo appello che ha spopolato su Twitter una valanga di consensi, qualche anche perplessità. Attori e registi come per esempio Massimo Bert Müller, che dice: paghiamo le tasse perché dobbiamo essere noi cittadini ad andare per strada a ripulire. Lo fanno per anni, per esempio, quelli del blog Riprendiamoci Roma, l'abbiamo anche intervistati nel weekend di Si può fare tempo fa. Perché insomma loro spesso passano i loro sabati e le loro domeniche a ripulire la città, la capitale, togliendo cartelloni pubblicitari o anche quelli elettorali in tempo di elezioni, in zone dove non dovrebbero esserci, ripulendo, spazzando, dandosi insomma da fare. Con tutti i distinguo del caso, l'idea di Gassman piace, sentiamo il Proietti. Alessandro, dicendo questa cosa, dice pure che noi cittadini forse dovremmo partecipare di più, non possiamo più continuare a fare solo gli spettatori, È chiaro che quello che dice Alessandro è una specie di metafora, di paradosso, per far capire che bisogna forse darsi un po' da fare. In che modo? Io non aspetto altro e qualcuno me lo consiglio, però voglio dire, non è soltanto la monnezza, perché poi dopo che lasciamo la scopa, come facciamo a guidare una metropolitana? Non possiamo sostituirci completamente alla politica. Un altro ottimista è il sovrintendente di Pompei, Massimo Osanna, perché insomma sempre dal weekend ce la tiriamo dietro questa cosa, lo sapete, lo saprete, venerdì, nel momento in cui diversi turisti stavano entrando agli scavi archeologici di Pompei, hanno trovato chiuso, hanno dovuto aspettare un paio d'ore perché c'era un'assemblea sindacale non preventivata, credo autorizzata ma non preventivata, non erano state avvertite le agenzie di viaggio, gli autobus sono arrivati, hanno scaricato i turisti, sono rimasti lì e non sono potuti entrare. Nonostante questo, Massimo Osanna ricorda i risultati positivi raggiunti dalla sua gestione, da quella del comandante Nistri, il capo del progetto Grande Pompei, che in effetti hanno cantierato tutti i lavori di messa in sicurezza che andavano fatti, e i turisti 2014-2013 sono cresciuti. Però insomma anche questo è un piccolo danno di immagine, ma sentiamo questo dell'assemblea naturalmente e dei cancelli chiusi. Non so quanto se ne saranno accorti in giro per il mondo di questa ennesima gaffe autoprodotta in salsa made in Italy, però insomma tant'è. Sentiamo però l'ottimismo di Osanna. In questo periodo abbiamo assunto un sacco di gente qua a Pompei. In un momento in cui ci stiamo tutti rimboccando le maniche qui col grande progetto Pompei per cambiare non solo l'immagine di Pompei, ma quello che è più importante, la conservazione a Pompei, perché da anni non si vedeva a Pompei una tale vivacità e una tale dinamicità. Abbiamo assunto 100 persone nuove con Ales, la tanto contestata società Ales, ma è l'unica cosa che possiamo fare in spending review, e abbiamo 100 fra restauratori che non ci sono mai stati, operai che non ci sono mai stati, architetti, ingegneri, archeologi. Abbiamo una squadra efficientissima che sta lavorando. Torniamo sempre alle solite argomentazioni, lavoratori dipendenti pigri, viziati, che scioperano nei momenti cruciali in cui bisognerebbe aprire le porte ai turisti. Dice Claudio Borghi, dell'economista della Lega, che se lo stipendio di questi dipendenti di Pompei dipendesse anche dal fatturato, dal numero di biglietti venduti e di ingressi realizzati a Pompei, probabilmente cose come quella accadute fine settimana scorsa non ci sarebbero mai. La cosa con... Se gli impiegati di Pompei avessero una parte del loro salario dipendente dal numero di visitatori e anche dalla soddisfazione dei visitatori stessi, io sono convinto che ci si penserebbe due volte prima di fare sciocchezze di questo tipo, perché non sarebbe l'impatto solo della giornata che magari può essere assorbito, ma sarebbe un impatto probabilmente a lungo termine sulla paga, se viene considerata una meta non appetibile. Si è consumato anche l'ultimo divorzio in casa berlusconiana, lo sapete, Verdini. Dopo l'addio, gli addii negli anni sono stati tantissimi quelli di Berlusconi: Casini, Fini, Bondi, adesso Verdini. A uno, tutti quanti, quando gli è convenuto, sono venuti via, e i nomi li sapete tutti fino agli ultimi, e quindi siamo rimasti noi che crediamo nella politica come un servizio al paese, quindi meglio soli che male accompagnati. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. C'è un po' di mestizia inevitabile in queste parole di Berlusconi: siamo rimasti noi soli. 800 24 0024, cari ascoltatori, vi aspettiamo tra pochissimo per i vostri interventi dopo il traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. E buonasera Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, romana. Buonasera a voi, buonasera. Da romana, è ottimista o no sul futuro della capitale? Prima domanda. sono ottimista se riandiamo a votazioni, finché l'attuale giunta si ostina a voler anche con un nuovo rimpasto comunque tentare di governare questa città. No, sono poco ottimista sui risultati. Ma voi da tempo chiedete le dimissioni di Marino, sicuramente ci sono delle ragioni, è ovvio, lui è il sindaco, quantomeno tira le fila della responsabilità in una città che amministra ormai da quanto tempo? Sono più di 2 anni ormai. Due anni circa, certo. Qualche mese più di 2 anni. Ma sì, è davvero tutta colpa sua? Cioè, per esempio, l'appello lanciato da Gassman, no, ai cittadini, rimbocchiamoci le maniche, al di là di come uno la pensi sul fatto di andare la domenica o no a ripulire i giardini o a darsi da fare nel proprio quartiere, però un po' chiama in causa il fatto che, insomma, tutta questa incuria in una città come Roma non discende un po' anche da atteggiamenti di inciviltà che sono diffusi e che non sono direttamente responsabilità del sindaco, o no? Allora, l'invito che faccio io ai cittadini, a parte quello di rimboccarsi le maniche e di avere un approccio differente con il rispetto della città, è quello di cominciare a rifare politica attiva tutti i giorni e ricominciare ad interessarsi di chi sono coloro che votano e coloro ai quali affidano la propria città. Forse questo è stato l'unico grande errore dei cittadini romani, ma un pochino dei cittadini italiani. C'era un vecchio detto che diceva: se non ti interessa tu della politica, stai sicuro che la politica si interesserà di te. Ma andare a ripulire un giardino non è fare politica, ripulire come no? Anche ripulire questo, la città, anche quello è fare politica. Guardi che assumersi la responsabilità. No, glielo sto chiedendo, perché poi uno può pensare anche diversamente. No, io invece credo che sia anche quello fare politica, però credo che da cittadini, nel momento che paghiamo le tasse ed affidiamo la gestione della nostra città a persone che si presentano con un programma e che hanno il dovere di attuare quel programma e di amministrare quella città, non mi sento in colpa se non mi occupo di pulire la strada o di prendere la pezzina e andare a lucidare il lampione. Credo che ci siano delle cose che spettano all'amministrazione, chiedere il trasporto pubblico e chiedere che ci sia un servizio di nettezza urbana che funzioni e chiedere che ci sia un'attenzione a un patrimonio culturale mondiale che in questo momento è lasciato completamente all'abbandono, non sia chiedere troppo. Se queste persone si sono proposte, sono state votate e si erano impegnate ad amministrare questa città, questo non l'hanno fatto. Che poi la colpa veda origini antiche, purtroppo noi abbiamo promosso come Movimento 5 Stelle il tour delle Veltroniate, delle grandi opere che mise in piedi Veltroni e che non portò mai a compimento. Io abito a Roma Est e do la piscina che venne progettata per quelli che dovevano essere gli europei di nuoto, che è rimasta lì uno scheletro immenso, un grande spreco di soldi e nulla che realmente la città abbia potuto godere. Per il resto, da romana mi vergogno degli stranieri che vengono e che non si trovano davanti quella che è la Roma che io amo, la Roma che vorrei e che si potrebbe tranquillamente riconsegnare ai cittadini in maniera molto più onorevole di adesso, perché lei mi spiega qual è il problema di amministrare una nettezza urbana che vede 8.000 persone che ci lavorano attualmente nell'AMA, o far funzionare un trasporto dove ci sono 12.000 dipendenti, sì, ma solo 5.000 fanno gli autisti. Sentiamo un pezzettino del video dell'autista dell'ATAC che si è, diciamo, autoripreso, è andato in onda, ha lanciato un appello per una manifestazione mercoledì a Roma e spiega un po' anche perché, come diceva lei, Taverna, ci sono 12.000 dipendenti ma solo 5.000 autisti. Cioè, se l'azienda è l'azienda dei trasporti, non si capisce perché ci sia meno della metà dei dipendenti che effettivamente poi guidano. Sentiamo. Martedì ho deciso di fare un video in cui spiegavo perché l'autobus non passa. Alle 14.30 dovevo iniziare il mio turno di lavoro all'EUR. Mi presento, ma la vettura non c'è. Sono guaste. Non ci sono vetture in sostituzione. Hanno aumentato il biglietto da 1 euro a 1,50 euro, ma i debiti sono triplicati, quadruplicati, siamo a più di... Vabbè, poi va avanti, siamo naturalmente, alcune di queste cose le abbiamo lette sui giornali. La risposta sulla questione trasporti, per esempio, secondo voi qual è? Privatizzare, come ha timidamente annunciato anche lo stesso Marino, oppure voi del Movimento 5 Stelle, che sui servizi pubblici in genere siete, come dire, siete dei difensori del servizio pubblico, avete un'altra ricetta, un'altra idea? certo che abbiamo un'altra idea, il servizio pubblico deve rimanere tale anche perché c'è tutta la possibilità di renderlo sostenibile. Allora io le faccio un esempio: se quando è stata fatta l'iniziativa per la quale sono stati tolti i bigliettai dalle autovetture e si sono sostituite queste macchinette obliteratrici e si è avuto un calo immenso di coloro che poi effettivamente pagano il biglietto, a fronte di una così disuguaglianza tra le mansioni che ci sono all'interno di ATAC degli assunti, per quale motivo non si ripristina un bigliettaio sulle vetture? Questo garantirebbe sicuramente sicurezza, perché purtroppo abbiamo assistito anche a conducenti che si trovavano in grande difficoltà, perché purtroppo ormai i mezzi pubblici sono visti come un altro nemico, perché non si riesce a prenderli, perché arrivano in ritardo, perché sono costantemente rotti. E molte delle persone che usufruiscono del servizio pubblico non pagano il biglietto. Quindi, se vogliamo veramente fare qualcosa che riporti legalità e trasparenza, cominciamo ad operare e a vedere quali sono state le assunzioni fatte sotto la giunta Alemanno per chiamata diretta. Sì, però questo, scusi, però questo sarebbe tornare alle responsabilità giuste anche del passato, di chi ha assunto, di chi ha fatto aumentare i dipendenti, di chi ha dato magari aumenti ingiustificati o ha concesso al personale di stare negli uffici anziché guidare le autovetture. Però arrivando all'oggi, se domani Paola Taverna fosse, si è detto Di Battista, un altro candidato sindaco di Roma, conquistate come voi auspicate Roma, cosa fate dei trasporti? Beh, probabilmente si va a rivedere quelli che sono gli stipendi dei manager e quelli che sono le necessarie quantità di personale viaggiante, piuttosto che quelli che decidono o organizzano male un servizio. Se io ho 70 dirigenti che prendono quanto 1000 autisti, permette che forse vado a fare un taglio su quelli che sono i costi dei dirigenti e vado ad assumere personale che mi conduca alle vetture? Permette anche che io dia di nuovo materiale a chi deve aggiustare le vetture? Ha visto sempre quel ragazzo che diceva che c'è questo cartello MM, mancanza materiale, le vetture sono rotte, non c'è il materiale per aggiustarle. C'è 1.600.000.000 di debito ATAC, e allora che cosa facciamo? Prima facciamo indebitare un'azienda pubblica per poi avere la scusante di doverla privatizzare. Io non ci sto. Allora bisogna rimettere mano a quello che è il bilancio, bisogna vedere dove effettivamente sono gli sprechi, dove si è annidiata la corruzione, e ce n'è tanta, tantissima. Mafia capitale è solamente all'inizio. Allora, come gli spending review che stanno facendo ora in sanità, se noi andiamo a tagliare i posti letto e non andiamo a colpire quelli che sono i 6 miliardi che ci costa la corruzione, è ovvio che la soluzione più semplice è quella di dire privatizziamo. Chiaro. Privatizzare, e diceva bene il ragazzo, perché io l'ho ascoltato, gli faccio i miei complimenti, a tutta la mia solidarietà. Non so che tipo di ripercussioni avrà il suo video su quella che è la sua natura, ma saremo attenti anche a garantire che le persone che denunciano vengano tutelate e non vengano punite. Però è tutto vero quello che ha detto, è assolutamente vero. Se noi privatizziamo un servizio pubblico, il cittadino che alle 3 di notte stacca dal suo lavoro e dà una corsa che raccoglie 4-5 passeggeri, quella corsa non è vantaggiosa per una struttura privata, verrebbe soppressa, e dobbiamo garantire che il servizio pubblico vada a risolvere quelle che sono le problematiche dei cittadini e non a ingrassare le tasche di chi intende speculare su quelli che sono i nostri diritti. Ricordiamoci che paghiamo le tasse per queste cose noi, certo. Non è che ce li stanno regalando. Ma se lei dovesse scommettere su il fatto che Marino va avanti oppure no, perché insomma il suo stesso partito sembra avergli progressivamente fatto un po' terra bruciata intorno, su cosa scommetterebbe? Che il fatto che alla fine si rinserra il PD e Marino va avanti o cade? Marino temo che vada avanti esclusivamente perché l'aria che si respira a Roma è un'aria che ci vede assolutamente avvantaggiati qualora si dovesse andare di nuovo a delle elezioni. Voi avete dei sondaggi che dicono questo? Ma noi abbiamo la sensazione tangibile dalle persone che ci fermano, dalle persone che ci scrivono, da chi ci chiede veramente di fare qualcosa, ma anche perché abbiamo dimostrato, carte alla mano, che siamo gli unici a non essere coinvolti in alcuna questione che ha portato questo stato di cose. Quindi perché non dover meritare la fiducia dei cittadini e perché non avere la possibilità di dimostrare che una città governata onestamente, così come stiamo facendo negli altri comuni nei quali ci siamo insediati, ormai non siamo più il 25% della protesta. Siamo un movimento che erano anni che tentava di fare tramitazione civile, perché io le spiagge le sono andata a pulire, io mi sono andata a ripulire il Circo Massimo quando dovevamo fare Roma 5 Stelle, quindi non mi sono mai tirata indietro di mettere però un candidato ancora non ce l'avete, anche se ancora chiaramente non ci sono elezioni, però insomma non avete ancora un uomo di bandiera a Roma, Di Battista. No, Di Battista, se dovessimo andare ad elezioni anticipate, non potrebbe essere comunque il nostro candidato, perché le regole interne al movimento non ce lo consentono. Però posso dirle che ci sono moltissimi ragazzi che, proprio in virtù dell'aspetto meritocratico con il quale il movimento si muove, si stanno avvicinando e che secondo me avrebbero veramente giustizia nell'essere spinti avanti in un'azione politica, anche senza bisogno dell'uomo di punta o della donna immagine. È sempre la logica della forza del movimento. Però io torno su questo concetto con cui abbiamo aperto l'intervista, cioè non le viene a volte il sospetto che invece i suoi concittadini, non tutti, alcuni, non siano poi così migliori dei politici? Per esempio, c'è questa notizia di qualche giorno fa che due operatori del car sharing a Roma, gli stessi che operano anche a Milano, Enjoy e Car2Go, sarebbero intenzionati a lasciare la capitale per le troppe auto vandalizzate. E questo però alla politica non c'entra nulla, sono le persone, sono i concittadini che fanno questo. Io non ho questa percezione di questo numero incredibile di cittadini così poco interessati alla propria città. Credo che ci siano elementi che vengono presi ad esempio per scaricare costantemente le responsabilità. Cioè, questa notizia secondo lei non è fondata? Ma può essere fondata, ma nell'ordine di quante unità? Io non trovo questi romani così vogliosi di vedere la propria città distrutta. Io quando vedo le persone che fanno la raccolta differenziata e che si portano giù da casa quattro buste e che mettono ogni cosa nel proprio secchione, ma poi vedo lasciare il secchione dell'umido per 5 giorni a 42 gradi senza essere ritirato sotto le finestre degli appartamenti, me la devo prendere con i cittadini. Noi ci stiamo impegnando, è anche difficile riuscire ad essere persone oneste e corrette quando ti cade un gelato in terra e ti guardi intorno e nell'arco di 2 chilometri non c'è un cestino. Cosa fai? Te lo metti in tasca? Questa è la scena alla quale ho assistito io ieri. Eravamo al ghetto, a un bambino è caduto un gelato, alla fine ha dovuto gettarlo all'interno di un bar privato perché non c'era un cestino. Ma veramente noi crediamo che tutti questi disservizi sono dovuti alla crisi, alla mancanza di soldi, questo è un progetto affinché si possa privatizzare tutto quello che oggi è pubblico. Tutto quello che oggi è pubblico deve andare allo sfacello e deve funzionare male perché si vuole privatizzarlo. Come in Grecia, Ci prendiamo in giro. Un po' come in Grecia da un certo punto di vista. Ma dove si prende atto che i servizi non funzionano pubblici e si dice privatizzate. Con la sanità, ma guardi che oggi il PD, che doveva avere questo passo di corsa in queste due ultime settimane, noi abbiamo terminato aula perché per 4 volte è mancato il numero legale. Il PD lunedì non viene a lavorare. Parliamoci chiaro di come funziona la politica in Italia. Non continuiamo a scaricare tutte le responsabilità sui cittadini, perché a me risulta che i cittadini pagano le tasse, hanno voglia di lavorare, ma non hanno la possibilità né di arrivare al posto di lavoro, perché a 42 gradi aspettare 20 minuti un mezzo pubblico e vederlo arrivare per 4 volte è stracolmo, e io li prendo i mezzi pubblici, sinceramente fa innervosire anche il più buono. Anche i santi si incavolerebbero. Senta, le posso chiedere un'ultima cosa che non c'entra nulla con Roma, riguarda invece la sentenza che viene da Livorno sulle scuole cattoliche, il caso del sindaco Nogarin e del suo partito, che ha fatto pagare l'IMU a due scuole cattoliche paritarie. Ma è una battaglia questa del Movimento 5 Stelle sul far pagare l'IMU anche alle scuole paritarie cattoliche, perché ricordiamo che quelle paritarie sono riconosciute dal sistema scolastico nazionale, insomma. Le paritarie oggi prendono anche delle sovvenzioni, hanno degli sgravi fiscali che Costituzione non consentirebbe, quindi io credo che in un momento di crisi, se tutti quanti contribuissimo, comprese le paritarie, a pagare l'IMU, le paghiamo noi cittadini sulla nostra prima casa, che non credo che sia un benefit ma sia una necessità, però, non vedo di che cosa ci dobbiamo scandalizzare. Qualcuno dice però che le scuole pubbliche naturalmente non pagano l'IMU, cioè le altre scuole, la maggior parte delle scuole. Come? Le scuole pubbliche non prendono una retta scolastica come prendono le scuole paritarie dagli alunni che frequentano. Sì. C'è una leggera differenza, e comunque le scuole pubbliche oggi vertono in situazioni che ci sarebbe da vergognarsi ulteriormente. Insieme a tutto quello che abbiamo detto, non dimentichiamoci anche come sono gli istituti scolastici in mano al Comune di Roma. Non dimentichiamo nulla. Sì. E io credo che Nogaren comunque abbia fatto qualcosa assolutamente nelle, di buon senso. Le altre città amministrate dal Movimento 5 Stelle potrebbero partire altri ricorsi, o sono già partiti, come quelle di Livorno? Non so, penso a altre città amministrate da voi, ormai ce ne sono in tutta Potrebbe Italia. Accadere. Non ho contezza delle azioni dei vari sindaci a Ragusa, a Gela, ad Augusta, non so bene come stanno verificando quella che è la situazione, perché no. Perché va bene, no. Grazie, buona serata Paola Taverna, grazie per essere stata con noi. Buonasera. 800 24 00 24, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua cari ascoltatori, 800 24 00 24, tra poco con i vostri interventi facciamo un passaggio veloce con i titoli di Sky TG24. Miliardi di tagli in arrivo per la sanità, stop a esami e visite non necessari. Lorenzin, spenderemo meglio. Decidio Scazzi, attesa la sentenza d'appello. In primo grado l'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano. 20 anni per tornare al livello di occupazione pre-crisi, allarme dell'FMI sull'Italia, previsioni negative sull'Eurozona. A Roma l'ennesima giornata difficile per i trasporti, l'appello di Gasman divide i cittadini, Marino lavora a rimpasto. Mattarella in campo per i Marò, continueremo a lottare, il presidente chiede umanità sul fronte dell'immigrazione. Arresti per le tangenti sugli appalti post terremoto all'Aquila, in manette 4 imprenditori e un ex consigliere comunale. L'Italia respira, il caldo cede, ma la tregua non durerà, nuova ondata di afa da metà settimana, ma il nord sarà risparmiato. La sera in diretta su Sky, il nuovo calendario della Serie A, nessuna testa di serie, il campionato inizierà il 22 agosto. Eccoci qua, allora abbiamo i vostri interventi, cari ascoltatori, e cominciamo con, se lo trovo, sì, Renato dalla provincia di Monza e Brianza, buonasera. Buonasera, salve a tutti. Eccoci qua, prego, cosa voleva dire? Io ho sentito prima il buon Proietti che diceva... Gigi Proietti, sì. Gigi Proietti, che lui appoggia l'iniziativa e dice ma cosa posso fare d'altro? Beh, era un po' perplesso però Proietti, eh? Sì, era perplesso, però diciamo qualche suggerimento lo gli può dare. Intanto la prima cosa che devo dire è che non dobbiamo pensare che ci sia nessuno che abbia la bacchetta magica per risolvere problemi che dipendono dal comportamento delle persone. Ci vogliono anni, la gente deve cambiare la testa, parafrasando Einstein, è più facile spezzare un atomo che cambiare il modo di agire proprio. Quindi ora, lei è della tesi che in tutto questo, diciamo, degrado di Roma ci sia anche una componente di inciviltà diffusa, non solo responsabilità dei politici. La signora Paola Taverna diceva che non gli sembra che i cittadini romani abbiano tanta voglia, ma è dai tempi dei film di Alberto Sordi sulla mutua a Roma che sappiamo che insomma il modo di comportarsi un po' da furbetti è diffuso, no? Non concorda. Poi un'altra cosa comunque che da dire, da suggerire, potrebbe essere appunto questa. Se dobbiamo fare una visita medica, non cerchiamo le scorciatoie, perché le scorciatoie nostre allungano i tempi degli altri. Se dobbiamo andare su un pullman, compriamo il biglietto, ma compriamolo alla macchinetta, non compriamolo dalle edicole che te lo vendono a 50 centesimi, un euro in meno, perché quelli sono biglietti falsi. Come? Scusi, alle edicole vendono i biglietti falsi? Ma no, ma perché non ci sono mica state inchieste e sì, tempo fa c'è stata un'inchiesta anche su quello. Non erano tanto le edicole quanto c'erano degli perfetto, diciamo, smerci di biglietti. C'è gente che smerce perché c'è gente che compra. Va bene. Grazie. Una cosa velocissima, una delle cose che può fare Proietti è organizzarsi con qualche attore, andare sui pullman e dire: signori, comprate i biglietti, perché tanto li pagate voi le corse che la gente... Questo potrebbe essere però divertente, grazie Renato. Cioè, testimoni all'attori come Gasman, come Proietti, come altri, con la loro grande popolarità e capacità di comunicare, diciamo, mettersi in mezzo tra i cittadini e anche, sì, le responsabilità più in alto dell'amministrazione, dei sindaci, eccetera, eccetera, e dire però, ecco, mettiamoci tutti la faccia e facciamo funzionare le cose, perché no? Umberto dalla provincia di Chieti, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Prego. Io volevo intervenire in merito all'addio o il presunto arrivederci di Verdini nei confronti di Forza Italia o PDL, che dir si voglia. Sì. Tanto io volevo fare una premessa. Fin quando nelle varie riforme della Costituzione o delle leggi elettorali non verrà inserita una legge che vieta il cambio di casacche, sì, come non c'è vincolo di mandato nell'ordinamento italiano, qualcuno ogni tanto lo evoca come sta facendo lei adesso e potrebbe essere ragionevole, vero? Ma io penso che sia, oltre che ragionevole, la risposta a questo tipo di cioè, discorsi. Si potrebbe quantomeno introdurre, che ne so, un limite, no? Perché ci sono personaggi che cambiano casacca anche 2, 3, 4 volte in una legislatura e questo è francamente, credo, insomma, insopportabile. Può capitare una crisi di coscienza, no? A metà legislatura uno fa un cambio, però non più d'uno. Potrebbe essere un inizio, no, Umberto? No, io non sono completamente d'accordo. Sai perché? Perché io penso che fin quando questa politica è una politica fatta soltanto di proclami, sì, e di spot propagandistici e non si ritrova una vera fede politica che poteva essere quella dei partiti, i partiti quindi guidati da un ideale, noi avremmo dei continui teatrini e scambio, perché tanto basta ricordare, non è Verdini oppure le persone che hanno fatto il gruppo ma misto. Quindi lei però, ho capito, però lei che cosa propone a questo punto? Che una pronto, volta che si è tolta la casacca del partito con il quale si era stati eletti, si dimette, tanto ormai si, dimette, si deve dimettere, secondo lei si dovrebbe andare a casa e non si percepisce neanche i benefit ai quali tutti si approssimano ma nessuno li restituisce. Io poi credo, guardi, sicuramente ci saranno esperti di costituzionalisti, esperti di diritto della politica che storceranno il naso di fronte a questa proposta. Certo, io perché però ne sono tutti direttamente coinvolti, per forse che non storcerà il naso. No, ma anche perché sicuramente ha un che di autoritario quello che lei dice, però io non sono del tutto in disaccordo con lei, perché in questo momento storico dove la politica è giustamente anche nel mirino degli elettori, sarebbe forse un segnale intelligente, interessante, no? Perché tutto sommato non sono molto in disaccordo con quello che propone lei, Umberto. Per che un minimo che di buon senso troverebbe. Cioè, voglio dire, non sarebbe una cosa da strapparsi i capelli, insomma, vieni eletto, certo, in un partito, va bene, tutto ok, non sei in accordo con la linea democraticamente decisa di quel partito, te ne vuoi andare, te ne vai. Però non cambi partito. Può darsi anche che ci sia qualche inghippo costituzionale, sicuramente, o anche qualche cosa che in passato è successa per cui questa cosa si è vietata per evitare totalitarismi, per evitare persecuzioni o cose di questo genere, però insomma forse oggi siamo in un momento diverso dal passato e quindi ce lo potremmo consentire una cosa così. Grazie Umberto, altri ascoltatori. Marco da Modena. Marco. Sì, pronto? Pronto. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, saluto tutti gli ascoltatori. Ma, innanzitutto mi lascia fare una postilla alla direzione della radio. Si può fare radio anche senza dire stupidate, dire parolacce, dire non lo dica troppo presto perché magari qualche stupidaggine poi mi potrebbe scappare anche a me. Guardi, non voglio, lei sa benissimo a chi mi riferisco. Sì. E per quello che non voglio tirare in ballo lei. Siamo in un orario in cui solitamente è in onda la Zanzara. Sì. Ma veda, non ho fatto nessun nome. No, ma è ovvio, faccio io. Siamo in un orario in cui normalmente è in onda la Zanzara. Allora è vergognoso secondo me. Poi ho Radio di Confindustria fa quel che gli pare, quindi no, ma non sono intervenuto per questo. Volevo poi quando uno parla come lei già mi sta simpatico, uno dice poi perché voi a Modena fate così, cioè avete questo che mettete. No, ma ascolti, io non ho fatto nomi apposta. Sì, vabbè, voglio, Marco, però voglio, cosa voleva dire? Cosa apposta, però, su cosa voleva intervenire? Sappiamo benissimo che mi riferisco, con chi orecchie da intendere intenda, probabilmente Confindustria secondo me deve avere dei giornalisti migliori. E lei ne è una prova. Comunque, questo è una sviolinata, ma vabbè. No, non ce l'abbiamo il violino, ce l'abbiamo da qualche parte il violino. Forse ce l'abbiamo. Adesso io vado a Roma ogni tanto. Ecco. Vado a Roma ogni tanto, così era tantissimo che non ci andavo. E cosa ha visto? Allora, non voglio fare paragoni con giunte passate, non mi interessa perché. Però sono andato a Roma, saranno 3 settimane fa con la famiglia, sono andato a fare un weekend. Io la prima cosa che ho fatto quando sono sceso ho preso la Freccia Rossa, sono sceso dopo la metropolitana. La prima cosa che mi ha lasciato imbarazzato, ma è una cosa veramente da, sì? Cioè, sono gli abusivi che ti saltano addosso, cioè intere vie di abusivi. Cioè, io mi chiedo, lasciamo perdere tutta gente poveraccia che deve mangiare, tuttora, ma quale soluzione troppi, si però, può trovare? Troppi. Mm. Ma sono troppi, ma intere vie di abusivi, cioè che ti vogliono vendere, che ti vogliono vendere. Ma mettiamoli in un quartiere, facciamo un quartiere tutto lì e teniamoli tutti lì. Ma come si fa? Vai a vedere una chiesa, vai a vedere un monumento. Ma per abusivi lei intende, lei intende per abusivi quelli che vendono le borsette e i fazzoletti, certo, di carta, o i centuri, finti centurioni, quelli che ti vogliono fare la foto? Gente poveraccia, cingalesi, io non so neanche chi viene in mano. Quelli delle rose, ma quelli sono da tutte le parti, forse a Roma ci sono più che altrove. No, ma è una cosa, è peggioratissima, sì, in quell'atto lì. E l'ultima cosa me la lasci dire, sì? Lei parlava di 12.000 persone praticamente dell'atto di Roma, 5.000 sono gli autisti semi. Allora, c'è uno che può prendere in mano questa situazione e scontentare, io non lo so, probabilmente andrà contro un muro di gomma, ma c'è uno che può prendere in mano questa situazione? Cos'è, una domanda la sua, una domanda. Forestali, sono come i forestali. È un auspicio il suo, un auspicio, ci uniamo al suo auspicio. Grazie Marco. Grazie. Buona serata. Si può fare l'attualità anche d'estate. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro, le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il gesso a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri. Ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due. Fino a un locale, aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Questa citazione di Jovanotti, questa travolgente canzone, il tormentone dell'estate, ci sta tutto, perché parliamo non tanto di estate quanto di vacanze. Adesso da Milano arriva una notizia, adesso il confronto, già il colpo d'occhio è notevole. Roma, abbiamo appena raccontato, alle prese col degrado e tutta una serie di casi di cronaca negativa. Milano invece splende col suo Expo, con i turisti in aumento, tutte le opere realizzate in questo periodo, metropolitana, d'Arsena, eccetera eccetera. Dal comune arriva una proposta per aumentare ancora di più il turismo, un weekend di prezzi calmierati negli alberghi della città. Salutiamo l'assessore al commercio del Comune di Milano, Franco D'Alfonso, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, una proposta per, come dire, mettere un freno, per usare un eufemismo, alle oscillazioni dei prezzi, no? Nei periodi dell'anno, fra un albergo e l'altro, che fanno impazzire i turisti. Ha detto bene, è per mettere il freno, più che calmierato, un prezzo calmierato, sì, è prezzo stabile, che è molto diverso. Lei, come si sa, siccome il turismo si muove molto sulle sensazioni, come forse la maggior parte, sì, delle nostre attività, è importante dare Milano in questo momento all'immagine della città con i prezzi al top, sì, per degli eventi al top, sì, quindi questo è senz'altro positivo. Poi però cosa significa? Dice, ah caspita, infatti noi nella prima settimana di Expo abbiamo avuto sostanzialmente addirittura un calo negli alberghi di quarta e di quinta, di 4 e 5 stelle. Perché? Perché la gente si aspettava, chissà, quella settimana lì, sì, un grande evento, ci saranno dei grandi prezzi. Poi effettivamente, cioè, avevano talmente paura che si sono dati a gambe levate. Perché questo è un problema che in effetti viene sollevato dai turisti riguardo all'Italia, cioè questa variabilità dei prezzi, cioè per la stessa categoria, un 2 stelle, un 3 stelle, da un posto all'altro d'Italia, ma da un periodo all'altro dell'anno, ed è una cosa che lascia sempre molto perplessi. Però veniamo alla vostra proposta. Qual è la proposta? Che potrebbe essere una buona notizia. Noi noi abbiamo Milano in questo momento ha una grande reputazione e ci sono molte attività, per cui l'attrattività non è più limitata ad alcuni periodi dell'anno, ma c'è un'attrattività generale. Allora la proposta è questa, dice, siccome uno dei nostri obiettivi è che Milano entri stabilmente nelle mete degli cosiddetti short track, cioè dei fine settimana, sì, delle città europee, vediamo di organizzare dei fine settimana per così dire standard, cioè i 50 fine settimana dell'anno prossimo dobbiamo garantire un cartellone stabile, ed è per questo che lavoriamo, così come abbiamo fatto, sì, con la struttura di Expo in città, per avere nei fine settimana non degli eventi casuali, ma stabilmente una presenza di eventi che sì, vabbè, ma questo però veniamo alla proposta sugli alberghi, perché questa sugli è alberghi la novità. È la stessa cosa, che gli albergatori si impegnino a dirci che per, sì, per tutto l'anno c'è un prezzo stabile, un prezzo scaglionato per... Però lei diceva, se leggevo nei comunicati che avete fatto in queste ore di questo patto che state lanciando con gli albergatori della città, un prezzo anche da comunicare, cioè lei ha in mente tipo, non so, anche una cifra, qualcosa che suoni Ma guardi, facile? Io gli avevo proposto, dico, visto che siamo nel 2016, dite che si sta con 201,6 euro a 5 nel 5 stelle, oppure uno, sì, sconto di meno 20-16%, però un prezzo da comunicare, questo, sì, però dipende dagli, da vediamo loro cosa ci propongono. Però gli albergatori come hanno accolto questa, cioè chi, soprattutto, no, la domanda è positivamente, chi, ma la differenza è chi ce la mette, perché questo, diciamo, sarebbe una, diciamo, minori introiti, no? Però lei dice forse a fronte di un turismo maggiore, alla fine converrebbe anche agli albergatori? Guardi, i dati statistici che vengono letti esattamente da noi e dagli albergatori allo stesso modo, anzi loro sono anche più in fretta, fanno vedere che ha un aumento del prezzo, un aumento spropositato, per dire, nelle due settimane, sì, il prezzo base era salito del 79,8%, del 79,8%, e l'occupazione era salita del 7%. Quando poi invece hanno riallineato nel mese successivo, il prezzo è salito del 15%, l'occupazione è salita del 12%. E soprattutto l'incasso è salito del doppio, cioè si incassa di più con una cosa stabile, come tutti possono immaginare. Se il prezzo è stabile, ma certo aumento l'occupazione, e soprattutto stiamo andando, fra l'altro stiamo parlando dei weekend, che per gli alberghi milanesi sono il momento di bassa, perché sì, il nostro turismo è ancora fondamentalmente... Non si viene a Milano nel weekend, si viene magari in settimana per fare delle attività, ma non necessariamente nel weekend. Questo, sì, non è vero, a Milano si viene nel weekend. Si, no, viene adesso di non meno, si offenda, che... non si offenda, vivo a Milano anch'io, quindi non era una critica. No, però lo so, senta... ma sono molto, in questo è un, sì, periodo in cui siamo tremendamente suscettibili. Suscettibili. Un altro peraltro, tema di suscettibilità, ecco, però scusi, un tema di suscettibilità sicuramente sono i numeri dell'Expo, perché non li sa nemmeno Beppe Sala, i numeri veri dei visitatori. Non so quanto tempo ci vorrà per avere i numeri definitivi, i numeri di Milano però, perché anche di questo si è discusso, qualcuno dice commercianti un po' preoccupati perché vanno tutti dentro il cantiere dell'Expo, dentro i padiglioni, e non stanno a Milano. I numeri di Milano cosa dicono? I numeri di Milano dicono che nel mese, se parliamo inserendosi su un trend che va avanti da 4 anni, noi negli ultimi 4 anni abbiamo avuto un incremento del turismo complessivo del 21,5%, sì, che è un incremento che non ha avuto nessuna città d'Italia e nessuna nemmeno in Europa in termini percentuali. Ma questo prima, quindi, dell'Expo, questo trend prima dell'Expo, in maggio e giugno l'incremento dei visitatori milanesi, sì, sono mese su mese del 10% e dell'11%. Questo significa grosso modo, poi ci sono una serie di altri, sì, dati che lo confermano, il traffico dei passeggeri dagli aeroporti, la metropolitana eccetera, quindi in buona sostanza nell'area di Milano, sì, nell'area metropolitana ci sono mediamente 200.000 persone in più rispetto al... Quindi... Ogni giorno. Voi siete in grado di fare una previsione anche dal punto di vista economico? Perché anche questo è stato detto. Chissà se Milano alla fine, oltre che in termini di immagine, avrà un guadagno anche economico dal grande evento. Facciamo un conto della serva. 200.000 persone al giorno in più, che non avendo una casa propria, insomma. Sì. Quindi diciamo che spendono, ed è bassa per la semplice sussistenza, trasporti e tutto il resto, diciamo che spendono 30 euro al giorno. Sì. Diciamo, grosso scarso, modo. È scarso, perché si spende sicuramente di più. Sì, però no, io infatti glielo sto facendo basso. Stiamo per bassi, stiamo quasi. Bassi. Quanto fa? Stiamo parlando di 6 milioni di euro al giorno. Sì. Vuol dire 180 milioni di euro al mese, vuol dire per i soli 6 mesi di euro, grosso modo tra un miliardo e un miliardo e 200 mila euro. Insomma, francamente, mi sembra che i conti tornino. Quanto già ha speso Milano invece per fare l'Expo? Milano Comune, insomma. Milano Comune, l'investimento complessivo di Milano Comune nella società Expo è stata di circa 500 milioni di euro. Circa. Quindi diciamo 500. Con questi che conti ci sarebbe un guadagno, però 500 sì. milioni di euro tornano nel conto economico di Expo S.p.A. Noi non siamo affatto rassegnati a pensare che Expo S.p.A. chiuda in perdita. Coi biglietti dice si incasserà qualcosa, più tutto l'indotto, però l'indotto non è che andrà necessariamente. Guardi, dal punto di vista dell'esito dello sviluppo economico della città, come si vede anche girando, lei mi ha detto che abita a Milano, lo capisce. Cioè, le carte di credito, che quindi vuol dire il commercio, stanno i danè girano, i danè milanesi girano, 18% in più, quindi insomma. Va stiamo bene. Parlando di grandi cifre. Va bene, grazie per ora, buona serata, assessore D'Alfonso. Grazie. Insomma, la notizia è questa: prezzi sotto controllo, calmierati, con una base che non subisca aumenti incondizionati a Milano nel weekend, nei prossimi mesi. Questa è la proposta che viene da Milano. Vedremo se poi diventerà una realtà. 800 24 00 24, giornale radio, torniamo subito dopo. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Che abbiamo votato nel marzo del 2015, maggiori entrate per 86 milioni di euro. Abbiamo votato il bilancio in assemblea a marzo del 2015, siamo stati la prima città a dare un esempio di buon governo di tutto il paese, la prima città metropolitana a votare il bilancio. Viva l'Italia dal Galo. Resta ottimista il sindaco di Roma Ignazio Marino, in queste ore l'avete sentito, siamo un esempio di buon governo, moltissimi sempre di più non la pensano così, dopo, insomma, lo sapete, vari casi di cronaca, ci si è messo anche il New York Times a pubblicare le foto del degrado di Roma e va bene, insomma, il resto lo sapete, è cronaca del weekend. Nelle prossime ore ci aspetta, probabilmente aspetta i romani, un rimpasto, una nuova giunta con nuovi assessori, anche un nuovo assessore al bilancio, soprattutto perché i problemi di Roma non sono soltanto i cassonetti dei rifiuti, assolutamente un grosso problema, o le buche per strada o insomma lo sporco per strada, ma sono quattro assessori al bilancio che si sono dimessi nell'arco degli ultimi 5 anni in 2 diverse amministrazioni comunali, di centrodestra prima con Alemanno e di centrosinistra adesso con Marino. Paola Taverna, Movimento 5 Stelle, romana, l'abbiamo sentita un'oretta fa circa, dice sì, io sarei più ottimista se Marino se ne andasse. Sono ottimista se riandiamo a votazioni, finché l'attuale giunta si ostina a voler anche con un nuovo rimpasto comunque tentare di governare questa città, no. il passo indietro del governo, della maggioranza, sul tema dell'intercettazione, soprattutto della possibilità di registrazioni, diciamo così, sono state definite registrazioni fraudolente, che poi fraudolente non sono quando c'è di mezzo il diritto di cronaca, lo ha detto più volte anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma sentiamo il ministro Orlando che fa questo annuncio. La rapidità con la quale si è ritenuto di dover riscrivere la norma provi il fatto che non c'era nessuna intenzione da parte della maggioranza né da parte dei gruppi della maggioranza di colpire la stampa. In tutti questi anni mai un solo magistrato, mai un solo funzionario della giustizia è stato colpito, incriminato, indagato per questi abusi. Per cui noi faremo fino in fondo la nostra battaglia. Il PD non è capace, non è in grado, per troppo tempo ha usato per fini politici l'abuso dell'intercettazione. C'è il sorteggio per la Serie A di calcio in queste ore, sì. Guardo le facce così, diciamo, non preparatissime della redazione, si può fare questa sera, non tutti i tifosi di calcio, però sì, in queste ore si sta facendo il sorteggio, chissà, magari vi diremo la prima giornata di Serie A quale sarà, forse durante il programma. Sì, Paolo Corleoni, regia, mi guardi anche tu con aria assorta perché non sei un tifoso di calcio, ma sì, all'Expo viene fatto il sorteggio, che normalmente a fine luglio si fa ogni anno per la ripresa del campionato di calcio di Serie A. Altro tema invece caldissimo, che non c'entra nulla col calcio, è quello della sanità, della spending review, perché insomma l'ha annunciato il governo Renzi, che si sta lavorando, ma ormai sono anni che si lavora su questa questione della spending review, cioè di trovare dei rivoli di spesa pubblica da tagliare. Il ministro Lorenzin ancora una volta rassicura e dice si risparmierà soltanto sul costo delle siringhe, che saranno parificati, spenderanno tutti con le centrali d'acquisto la stessa cifra, più bassa possibilmente, non quella più alta. Non ci saranno chiusure d'ospedali, non ci saranno tagli, nessun taglio strutturale alla sanità. Sarà, ma i miliardi che il governo Renzi deve recuperare per diminuire invece le tasse, questo sì, un annuncio è stato fatto qualche giorno fa da Renzi, sono tanti, quindi vedremo. Sentiamo intanto Lorenzin. Non c'è nessun taglio di 10 miliardi, non è stato né pensato né previsto né è pensabile, perché la sanità italiana ha già dato da questo punto di vista. Invece, insieme al commissario per la spending, stiamo attuando il patto della salute in modo prescrittivo, cioè ridurre i tanti sprechi che ancora ci sono nel settore sanitario per reinvestirli nella sanità. On the beach, sotto solo la pelle blu, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi sopra il mare, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, gli occhi neri e gli occhi blu. Siccome molti di voi sono in località di mare, di villeggiatura, si stanno spostando verso le vacanze eccetera, vi veniamo a scovare lì, cari ascoltatori, per proporvi le nostre notizie e con storie che hanno a che fare in qualche modo con i luoghi di mare, di vacanza eccetera eccetera, con questa canzoncina qua. Potremmo fare anche un sondaggio tra gli ascoltatori: volete sentirla questa canzoncina, Beach on the Beach? Chi erano i 3-3 che cantavano questa cosa qua 150 anni fa? Vi piace? È vintage abbastanza? Oppure volete qualcosa di più moderno, volete cambiare? Scriveteci, si può fare trattino Radio 24 su Facebook, si può fare 24 l'account di Twitter, 349-238-6666 per gli sms. Non so se potrebbe essere degno di un intervento in diretta questo argomento, ma insomma 800-24-0024. Oh, allora, se alzate la testa all'insù e siete dalle parti della Versilia in spiaggia, vedete qualcosa che vola, state tranquilli, è il bagnino. È il bagnino volante, il drone bagnino. Buonasera a Roberto Santini, titolare dello stabilimento balneare Piero a Forte dei Marmi. Buonasera a tutti. Per un attimo ho avuto il terrore che lei mi facesse fare l'assessore del bilancio a Roma. Perché? Quindi qualsiasi altra cosa è sicuramente più semplice. Beh sì, penso di sì. Oddio, gestire uno stabilimento balneare è qualcosa che ha a che fare anche col bilancio. Cioè, bilanci un po' più piccoli, sicuramente. A proposito, come va la stagione intanto? Già che parliamo di bilancio. la stagione va bene, la stagione è bellissima e soprattutto bisogna lavorare per il futuro, perché oggi noi probabilmente viviamo una contingenza fortunata, perché purtroppo altre mete che sono a noi concorrenziali vivono dei momenti difficili, penso alla Grecia, penso a tutta l'area del Maghreb, che possono essere sicuramente aree a noi concorrenti, e quindi noi dobbiamo prepararci, perché un domani non potremo concorrere con loro su una base di prezzo, ma soltanto sulla qualità dei servizi che noi offriamo. Quindi diceva, adesso c'è la questione del prezzo, anche se però ci prepariamo, quindi diciamo, a competere sulla qualità. Adesso sicuramente non potremo competere sul prezzo contro di loro, ma potremo competere sulla qualità nel momento in cui loro avranno la possibilità. E quindi lavoriamo su questo. E diciamo, rientra in questa idea anche l'idea che ha avuto lei di utilizzare il drone Bagnino? Noi siamo purtroppo su questa cosa in un po' in ritardo, perché il drone Bagnino ha avuto uno stop, tra parentesi, è un progetto finanziato dal governo britannico, e quindi andava avanti. Noi dovevamo avere il numero zero di questo prodotto, che purtroppo i tecnici non sono stati in grado di consegnarci per quest'estate, quindi l'avremo in futuro. Abbiamo intanto, lei ha fatto le prove, c'erano le foto di lei in spiaggia col drone che lo pilotava, insomma, invece poi qualcosa è andato storto. Però abbiamo avete avuto il collaudo, cos'è successo? E loro hanno avuto delle difficoltà tecniche nel consegnarci il modello zero, noi abbiamo avuto dei prototipi e cose per cui abbiamo preso le abilitazioni a comandarli, a darci e cose, poi purtroppo non abbiamo avuto la cosa. Però questo non vuol dire che noi non guardiamo avanti verso nuove soluzioni. Perché questa è una delle nuove frontiere, no? I droni che ormai fanno tutto, fotografano dall'alto, fanno riprese dall'alto, monitorano il territorio, era una bellissima chance, perché il drone è sempre visto purtroppo in un'espressione negativa, invece come tutti i mezzi non è il mezzo che di per sé può essere negativo, ma è l'utilizzo che l'uomo ne fa, e quindi ecco, dare la possibilità ad un mezzo che è visto, purtroppo lo vediamo nelle zone di guerra per cosa è utilizzato, vediamolo per i fotografi per cosa lo utilizzano per fare le cose, invece poteva essere veramente una cosa, però potrebbe, io me lo metterei in futuro. Ma lei spera, diciamo, entro la fine della stagione di arrivarci, oppure per colpa di queste lentezze, diciamo, sfuma, diciamo così? Ma noi assolutamente, la speranza ci è sempre sta provando. Nel termine della stagione di arrivarci. Però guardi, quest'anno sulla cosa, non avendo il drone, abbiamo trovato la soluzione della Rescue Board, che è una tavola da surf che serve per il salvataggio, e i ragazzi che vigilano la nostra spiaggia sono bravissimi nell'utilizzare questo. In ogni caso il discorso del drone era un discorso integrativo, la sicurezza non andava a sostituire il bagnino, diciamo, non sarebbe stata una, come dire, non andavate a creare nuova disoccupazione, questo non era l'intenzione. Assolutamente, guardi, nessuno dei miei 54 dipendenti su 100 metri di spiaggia rischiava il posto per la sostituzione del drone, anzi il drone forse andava a integrare qualcuno in più, perché però adesso in ogni caso abbiamo dei ragazzi che stanno utilizzarlo, sono pronti a utilizzarlo, aspettiamo con fiducia che ci venga consegnato. Ci uniamo a questo auspicio, perché sicuramente, insomma, sono il futuro i droni e tutto quello che ci si può fare in più rispetto a quello che si faceva in passato. Grazie, speriamo, Roberto Santini. Speriamo auguri. Di vedere i droni su questo, sulla spiaggia e non in altre zone. Grazie, buonasera. In bocca al lupo anche per la stagione. Però insomma, hai sentito che non è iniziata male, e voi sapete che Forte dei Marmi è un termometro della stagione balneare italiana. 800 24 00 24, ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 00 24. Aspettiamo i vostri interventi. Come avete sentito, con le buone notizie bisogna sempre andarci coi piedi di piombo, perché ci sono degli annunci belli, interessanti, che insomma ci troviamo coinvolgenti. Poi a volte ci sono degli intoppi, bisogna sempre andare a verificare come vanno le cose effettivamente. Così col drone Versilio, il bagnino drone della spiaggia della Versilia. Allora, adesso titoli del TG3, poi rientriamo con gli ascoltatori. Per il Fondo Monetario all'Italia ci vorranno 20 anni per tornare all'occupazione pre-crisi. Il Ministero del Lavoro nei primi 6 mesi ha aumentato i contratti a tempo indeterminato. Al Senato manca per 4 volte il numero legale sul decreto enti locali, in cui il governo inserirà i tagli alla sanità per 10 miliardi in 5 anni. Domani la nuova giunta Marino, non ne farà parte Sinistra Ecologia e Libertà, che annuncia il suo appoggio esterno, verranno sostituiti il vice sindaco e 2 assessori dimissionari. Intercettazioni, il PD alla Camera deposita un emendamento che esclude il carcere per i giornalisti, il ministro Orlando, non vogliamo colpire la stampa. Mattarella agli ambasciatori, ci batteremo con determinazione per la libertà dei Marò, Italia in prima linea contro l'ISIS, Europa in affanno, ha bisogno di rilancio. Attesa per la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Taranto sull'omicidio di Sara Scazzi, in primo grado, condannate all'ergastolo Sabrina Misseri e sua madre Cosima. La Turchia prosegue le azioni contro l'ISIS, ma soprattutto è guerra contro i curdi del PKK. Domani in riunione dell'Alleanza Atlantica, richiesta da Ankara. Allora, c'è qualche ascoltatore che a 3422386666 si dice perplesso sui numeri dati dall'assessore D'Alfonso, assessore al commercio di Milano, sui turisti a Milano in crescita con Expo. E insomma, le cifre che lui ha dato sono queste: più 10% di incremento già sui numeri positivi del turismo, che sta crescendo da 4 anni a questa parte a Milano, 200.000 visitatori in più nel periodo di maggio su aprile, e la stessa cosa nel periodo di giugno su maggio, e quindi ha fatto una previsione, insomma, di 1.200.000.000 in più di introiti per il turismo, con una base di 30 euro a persona di spesa su Milano da parte dei turisti. Vabbè, insomma, se lo dice l'assessore, noi lo prendiamo così, lo prendiamo per buono. Andiamo con Aurora, che ci chiama da Verona. Buonasera. Buonasera. Prego. Sono una guida turistica e stiamo riallacciandomi a Pompei e Roma. Sì. Di fatto io ho un po' di anni che faccio questo lavoro e diventa veramente sempre più difficile difendere il comportamento degli italiani, perché ovviamente io quando lavoro con i turisti devo difenderli, devo essere positiva. Certo. Il fatto di Pompei è più del dire vabbè, abbiamo aperto un'ora e mezzo dopo. Purtroppo il turismo è sempre più mordi e fuggi, i programmi sono veramente stretti, e quando tu hai 2 ore per vedere salta Pompei, tutto, se saltano 2 ore salta tutto, salta, ma saltare significa anche che tu vieni deriso, ne perdi di professionalità, perché la prima roba che ti dicono è ma come, tu come guida non le sapevi queste robe, non potevi cambiare. Ma Aurora, capita spesso cose di questo genere, perché questa volta ha fatto molto clamore la questione di Pompei, perché Pompei è sempre al centro dell'attenzione, poi insomma un'assemblea cancelli chiusi per 2 ore, ma capita spesso anche in altri siti, in altre località. È capitato a noi a Verona con la Casa Giulietta e con l'Arena, ma capita quando ti aumentano i prezzi dei biglietti di entrata senza avvisarti ed improvviso. Sì. Capita quando tu parli con i turisti, fai la guida e gli dici andiamo a vedere la casa di Romeo e Giulietta, mettiamo certo, l'ingresso sono 8 euro, poi arrivi costa 10 e ci fai ovviamente una figuraccia. Certo, ma sì, perché poi sembra proprio che tutti improvvisi, ma poi non è solo quello il cliente che protesta, tu devi comunque offrire un qualcosa di alternativo, che sono costi. Però anche qua non c'è una qualche responsabilità a volte anche di qualche tour operator, di qualche, adesso non per gettare la croce addosso a voi operatori del turismo, ma per esempio nel caso di Pompei, ora forse si poteva ridimensionare magari dicendo a questi turisti, avvisandoli di questa assemblea e di non farli arrivare davanti ai cancelli, pur sapendo che l'avrebbero trovati chiusi, facendoli arrivare 2 ore dopo magari, no? Il problema è sempre difficilissimo da gestire, cioè noi litighiamo sempre con l'assessore a Verona per questo motivo, cioè quando chiudete una strada, quando fate un cantiere, quando mi cambiate qualcosa, avvisateci, ma non il giorno stesso, perché poi il messaggio deve andare avanti parecchio, cioè non è che avvisando un'agenzia si risolve il problema. Insomma, io capisco che questi lavoratori abbiano diritto dell'assemblea, capisco che i biglietti vadano aumentati, ma il turismo deve essere gestito come la moda, si deve lavorare un anno in anticipo. È sì. ovvio che un operatore l'anno successivo metterà in catalogo, magari in piccolino, non è garantito l'ingresso. Ma a Pompei c'è stata, Aurora, recentemente lei c'è stata come guida a Pompei? Io ci vado spesso, io sono anche accompagnatrice. Ha visto i progressi, i miglioramenti che dicono ci sono? Io non ci sono, tra l'altro non sono mai stata a Pompei, però no. pare che i turisti siano in aumento e le cose siano un po' migliorate. Le risulta? Sì, sì, è vero, è vero. È, poi è uno dei siti più fantastici del mondo, bisogna averla vista Pompei. Sì. Ed è per quello che dico che è una figuraccia arrivare a trovare i cancelli sì. chiusi e senza sapere il perché. E poi quando tu dici c'è un'assemblea di dipendenti, ti vergogno un po', sinceramente. Però non è una cosa, secondo lei, non è una cosa, secondo lei, del sud, no? È una prerogativa lei chiama davvero, la potrebbe dire, perché è capitato anche nella sua città. No, no, questo non è un problema di sud, questo è il problema che gli operatori pubblici non si rendono conto dei tempi del turismo, non si rendono conto di come si lavora. Tanto cosa succede un'ora in più? Succede che salta Pompei e questi magari non verranno mai più. Se sono degli americani, degli asiatici, vengono una volta nella loro vita e perdono Pompei. Io mi sentirei un po' frustrata, un po' triste, non arrabbiata, perché ormai non mi arrabbio più, mi frustro. Va bene, grazie Aurora. Intanto grazie. Vi leggo, la prima giornata di Serie A è stata sorteggiata poco fa, così i tifosi sono tutti tranquilli: Empoli-Chievo, Fiorentina-Milan, Frosinone-Torino, Inter-Atalanta, Juve-Udinese, Lazio-Bologna, Palermo-Genoa, Sampdoria-Carpi, Sassuolo-Napoli e Verona-Roma. Gabriele da Roma, buonasera. Ah, salve, buonasera. Su cosa voleva intervenire, Gabriele? Io avevo sentito l'intervento della Taverna. Sì, su Roma, sulla sua città. Su Roma, sì, sì. Sono romano, per cui parlo anche con cognizione di causa. Allora, la prima cosa che... Prego, è Gabriele. È probabile che la Taverna non abbia trovato cestini al ghetto perché proprio non ci sono per ragioni di sicurezza. Però sì. questa è una cosa che va verificata, ma... Da quello che dalle mie conoscenze so che è una delle ragioni per cui non si trovano gestini al ghetto, perché possono essere dei luoghi dove occultare sì. Ovviamente ordigni o strumenti pericolosi. Però questo poi, non può giustificare, credo, l'assenza in assoluto di cestini in tutta la città, no? No, ma in come diceva lei, ecco. Sì, sì, in città qualcosa c'è, magari molto scarna, però c'è. Poi io sono abbastanza convinto che poi il comportamento del romano incida profondamente sullo stile di vita della città, per cui negare questo è un grosso errore. E com'è da romano lo stile di vita del romano, detto in negativo? Detto in negativo è abbastanza menefreghista e ci sono dei comportamenti in realtà che potrebbero essere ovviati, perché ad esempio l'AMA fa una raccolta porta a porta anche di rifiuti ingombranti, ci sono dei centri di raccolta speciali sì. il weekend, dove uno con la macchina solo in tutti i quartieri può portare il televisore, il divano, addirittura li vengono a prendere a casa, però è molto frequente che sul divano lo trovi lasciato accanto al cassonetto, anzi una cosa proprio diciamo all'ordine del giorno. Per cui è proprio un'ignoranza nei comportamenti quotidiani che poi porta a una degenerazione della città. Ma secondo lei il sindaco, la giunta Marino, ha anche delle responsabilità dirette e, come chiedono in molti, dovrebbe quantomeno cambiare marcia o addirittura dare le dimissioni, prendere atto del fallimento di questa giunta, oppure lei in qualche modo vede una responsabilità anche da parte dei suoi concittadini e quindi non butta tutta la croce addosso a Marino? No, dare la colpa solo alla politica è un errore, anche perché la classe politica è votata dalla società civile, cioè vabbè, questo sì. sono uno specchio della società. Anche l'ATAC ne è un esempio evidente, cioè a Roma lo scriveva Stella in un articolo ritto, un articolo un paio di giorni fa, tra ATAC, le contrattazioni sindacali, i sindacati dell'ATAC l'hanno fatti sempre direttamente con la politica e non con gli organi amministratori dell'ATAC. Questo già significa che c'è un meccanismo perverso e corrotto, proprio che non permette che i servizi possano funzionare in maniera trasparente. Va bene, grazie, buona serata anche a lei. Biagio da Firenze, prego. Buonasera a tutti. Senta, io faccio un leggero passo indietro. Intanto faccio una premessa, volevo riprendere Marco da Modena sul discorso della zanzara. Secondo me la zanzara rimane comunque una tradizione calda in questo momento in Italia, quindi bene, certo. È giusto che ci sia, anzi, il fatto che è su una radio istituzionale come Radio 24 gli fa ancora più onore. Detto questo, volevo fare un passo indietro e mi riaggancio al ragazzo di prima, sì, e all'intervento della Paola Taverna. Il problema Verdini, ora chiamiamolo problema Verdini perché questi passaggi di casacca quotidiani che hanno queste persone, secondo me non è più neanche un problema di vincolo di mandato, ma si va oltre, qui è un problema di onestà intellettuale delle persone che non esiste più. Tutte le volte che si parla dell'onestà intellettuale o anche della necessità di fare questioni culturali, per esempio parlando di Roma e del degrado, poi bisogna darsi delle regole, però, perché altrimenti parliamo di che cosa? La Paola Taverna prima ci ha illuminato su questa cosa. Quando lei gli ha domandato: voi avete il candidato Di Battista? Lei ha detto: no, Di Battista non si può candidare perché ha preso il mandato di onorevole. Cioè, ci vuole poco, basta scegliere le persone giuste. Cioè, vogliamo un Movimento 5 Stelle, se questi veramente fanno così, il problema lo risolviamo. Ora l'ho detta battuta. Però loro si sono dati una regola, è quello che diceva lei, che invece non è una questione di regole, ma di onestà intellettuale, disonestà intellettuale da parte di Verdini. Sì, ma lì è una questione di disonestà intellettuale di queste persone a questo punto, non è più neanche una questione di vincolo di mandato. Il problema di fondo, la Taverna diceva, parlava delle persone, parlava di Marino, eccetera. Il problema Marino a Roma noi l'abbiamo anche qui a Firenze, e guarda caso la città di Firenze in queste condizioni, ci abbiamo avuto il sindaco che adesso è presidente del consiglio e non sa risolvere il problema di Roma. Evidentemente è una cosa che si porta dietro, purtroppo, questo ragazzo. Ma il problema è una questione di persone, non è più una questione di vincolo di mandato o cose del genere. Fare di fronte al problema posto da queste persone, come per esempio Verdini, no? Nel caso di Verdini se ne va, saluta Berlusconi e quindi che succede? Quindi deve andare a casa. Se lui ha scelto, lui si è candidato proponendosi con dei valori. Quindi lei però è d'accordo con quello che diceva Umberto prima? Io sono d'accordo con quello che diceva Umberto. Che quindi ci vorrebbe una regola per cui se uno vuole cambiare casacca si deve dimettere, cambia proprio niente. C'è anche da dire una cosa, che se mettiamo una regola del genere, questa gente, pur di rimanere lì attaccati alla poltrona e allo stipendio, sono capaci di vendersi anche la mamma e votare contro, comunque rimanendo nello stesso partito, perché comunque vada, se gli togli lo stipendio a queste persone, gli togli l'acqua sotto i piedi, il terreno sotto i piedi. Quindi il problema di fondo, va bene le regole, vanno bene tutto, però qui se non torniamo ad un problema veramente di moralità, di onestà intellettuale delle persone, qui non si, cioè un Aldo Moro non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Un Berlinguer non l'avrebbe mai fatto. Chissà quante cose non avrebbe fatto Aldo Moro oggi, o anche Berlinguer, che oggi si fanno, però è cambiato il mondo nel frattempo, mi scusi, non sono cambiati solo i politici, proprio cambiato il mondo. Sì. Ma santo Dio, scusa l'espressione, ma queste sono cose basilari del comportamento di una persona che dovrebbe andare a governare un paese. Sì. Cioè, qui non si sta parlando di chissà quali tipi di scienziati o quali tipi di scoperte devono fare. Biagio, mi dice solo una cosa però, visto che citava Firenze, la cosa peggiore che ha fatto Renzi da sindaco, dal suo punto di vista, no? Dice che ha lasciato la città in mano. La cosa peggiore? La città è una città sporca. Città sporca, disorganizzata, una città morta sotto l'aspetto culturale. Questa è la cosa. Io ho un ragazzo, un figlio di 23 anni, che si lamenta costantemente della mancanza di vita culturale in questa città. Questa città alle 10:30 di sera non c'è più niente, i locali alle 11 chiudono, non ci sono, a parte gli Uffizi, a parte le solite cose, non ci sono. Beh, insomma, gli Uffizi, le solite cose, beati voi che ce l'avete. Comunque, Biagio. Ho capito io. Biagio, grazie. Sentiamo gli altri ascoltatori, fiorentini o toscani, cosa ne pensano? Firenze, città sporca e anche senza vita culturale. 800 24 00 24, andiamo con chi andiamo? Con Luca da Milano. Luca, buonasera. Buonasera. Sì. Mi avevo chiamato per intervenire su un intervento che aveva fatto prima l'assessore al turismo di Milano, e non so se sia sempre questa la trasmissione e l'argomento, cosa che non mi pare. Commenti pure, anzi, la notizia. Ma guarda, il commento era che da essere disperati a continuare ad avere dei politici che gestiscono le cose pubbliche, e qui si innesta voglio dire, da qualsiasi veramente politico, perché sentire un assessore al turismo, che al commercio, io ho lavorato in campo alberghiero per 15 anni, gestendo una grossa azienda italiana, e sentire che l'idea che ha avuto per cercare di far attirare turisti nella città di Milano è quella di chiedere agli alberghi di fare una regolamentazione di prezzo, poi prendendo spunto come idea di marketing di fare una promozione a 201,60 euro perché siamo nel 2016, oppure sconto 20,16 senza preoccuparsi minimamente, e questo è il vero dramma della politica italiana, va a mettere persone che sappiano, che siano professionisti del settore per i quali sono in qualche maniera richiamati. Però mi scusi, in effetti l'idea un po' bizzarra del 2016, perché secondo lei è un'idea sbagliata quella lì? Che invece secondo me è un'idea che potrebbe essere interessante? Perché intanto è il mercato che fa il prezzo, e questo è una cosa assoluta ed è una regola del mercato. Sì, però perché questa è una questione di principio, non è una questione diciamo pratica, è una questione di principio. Io potrei essere d'accordo con lei. La premessa è che il mercato spesso in Italia fa tariffe troppo differenti da un giorno all'altro, da una località all'altra, e il turista per usare un francesismo. Se lei, come tutti quanti immagino che viaggi, prende un aereo, prende un treno, va in qualsiasi città del mondo, i prezzi li trova differenti non soltanto da un giorno all'altro, ma da ora in ora probabilmente, perché c'è una cosa molto semplice, che è il tasso di occupazione, che sia di un museo, di un teatro, no? Cioè c'è una domanda a un certo punto, una domanda con i tempi. I pezzi dei teatri e dei musei non cambiano mica a seconda dell'orario. Faccio per dire. Allora, tornando a quello che invece ha un senso di domanda e offerta, cioè non esiste un prezzo unico, un'offerta spinge, i beni sono limitati e si crea un proprio mercato, nessuno vende a un prezzo al quale il proprio prodotto non può essere comprato, e perché le aziende sono strutturate per fare incassi e non per fare non tutte in verità, non per fare il difensore d'ufficio dell'assessorato di Milano, perché io ho trovato la proposta, poi non so se è realizzabile, non sono esperto del settore, interessante, perché loro dicono infatti è giusto porla a lei questa questione: se io con una politica della tariffa abbassata e la stessa, diciamo, che è in grado di comunicarla al turista, riesco a attirare più turisti, è ovvio che diciamo incasso di meno ma di più, e quindi diciamo questa è l'aspettativa. Non sta in piedi sto ragionamento secondo lei? No, sta in piedi, perché credo che ci dovremmo preoccupare di che cosa le città danno, quanto una città e un territorio attira un turista. Beh, questo è vero, lei scusi di cosa si occupava? Un assessore che dice abbassi i prezzi degli alberghi, stiamo restando che poi gli Vabbè, ho capito, lei non è d'accordo. Cosa faceva lei? Di cosa si occupava? Ma io ho gestito per molti anni una grossa compagnia alberghiera che opera nel lusso italiana con alberghi all'estero. Quindi il tema lo conosce. Lo conosco molto bene gestionalmente. Lo conosco molto bene. Ma adesso ha cambiato lavoro? Adesso faccio tutt'altro, perché 2 anni fa ho mollato questo lavoro e adesso porto clienti in barca a vela. Dove? Che bello! In Italia. Cioè fa lo skipper? Sì, mi sembra un parolone. Ma è un caso, come si dice, di mollo tutto e me ne vado? Di mollo tutto e me ne vado, esatto, sì. Perché non sopportavo più nulla di nulla. Quello che erano le logiche, non della mia azienda, ma complessive, avevo bisogno di prendere respiro e l'ha presa. Andare in barca. In quale porto basa lei? Ma in questo momento io sono di base a Procida, che è una delle 3 isole napoletane. Ha capito, ha detto tutto. Ha detto tutto. Procida è un'isola meravigliosa, quindi lei sarà l'uomo più felice del mondo. Conosciuta, bellissima, sì, e poi una società con cui faccio charteraggio nautico in tutto il mondo, insomma, poi sulla barca che gestisco direttamente. Rendeva di più essere amministratore della grande catena? Rendeva di più essere viaggiare 250 giorni l'anno e lavorare intorno alle 18 ore al giorno. Però lei non tornerebbe indietro? No, le devo dire che ho acquistato in libertà e proprio in qualità di vita, pur facendo fatica, perché poi chiaramente insomma c'è una parte della responsabilità, ma è anche una questione di ore in cui si sta in piedi e si opera sulla barca. Però è felice, è felice così, e noi siamo felici per lei, e anzi queste scelte sono sempre belle, comunicano comunque entusiasmo, prendono la vita in mano e decido di portarla da un'altra parte. Complimenti, grazie Luca, ciao, buonasera. Tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed? Questa è la celebre canzone dei Bastiglie, Pompei. Insomma, non bastasse Roma, ci si è messa di mezzo anche l'assemblea, lo sapete, dei lavoratori di Pompei, a dare questo colpo negativo all'immagine dell'Italia. Ne abbiamo parlato tutta la sera e chissà ancora per quanto ne parleremo. Io saluto Antonio Pepe, ex segretario della CISL di Pompei. Buonasera. Buonasera anche a voi. Ex proprio da pochissimo, perché lei, cioè, in seguito un po' anche a quello che è avvenuto, non è più il segretario della CISL di Pompei? Sì, diciamo che non è avvenuto niente fuori dalle regole. Anche questo è un poco atipico. No vabbè, però perché adesso non metta le mani avanti, non l'ho mica accusata di nulla. Lei diciamo è stata la persona che ha organizzato questa famosa assemblea? Diciamo che uno dei tre segretari che ha indetto, sì, l'assemblea del 24, sì. Ecco, ci spiega intanto, così stiamo ai fatti, no? Perché le vengo dietro, prima di fare la critica, il fatto che avete bloccato il sito, chi se ne frega. Sì. Voglio sapere perché avete fatto questa assemblea, qual è il motivo? Allora, l'assemblea... Però in un minuto, non mi faccio una filippica. Però non le voglio fare cose, però questo minuto non facciamo in modo che poi diventi mezzo. Allora, le volevo dire, innanzitutto, sì, noi abbiamo rivendicato i diritti dei lavoratori e l'assemblea è un effetto e non è una causa. La causa è il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori. Quali diritti? Allora, qui si va dai lavoratori, che devono avere il rispetto per quanto riguarda il carico di lavoro, che deve essere deve avere un parametro di riferimento, perché il lavoratore deve garantire fruibilità al sito archeologico e deve garantire sicurezza. Non gli si può dare tre zone in mano, tra l'altro, mettendo a rischio l'area archeologica. Non gli si può dare che cosa in mano, scusi Antonio? Un'area archeologica che non può garantire né sicurezza né la fruibilità. No, cioè, non ho capito. Lei dice che... Allora, Pompei è ripartita in zone. Ogni custode dovrebbe avere una sola zona. Molto grande, molto grande, perché molto il sito grande. È grandissimo, questo noi è vero. Stiamo parlando di 67 e di 22 custodi per turno, perché siamo calati... Quindi, scusi, allora, aspetti, andiamo con calma. 66 ettari, 22 custodi, quindi ogni custode, diciamo, avrebbe su di sé 3 ettari. Esatto. 3 ettari quanti sono? 100%. Aspetti, Antonio, con calma. 3 ettari sono 100%, no? 100 metri per cento. Quindi sono come se fossero 3 campi di calcio. Allora, facciamo un ettaro, anche diciamo che circa, ma manca pochissimo per 10.000 metri quadri. Sì. No, un ma ettaro. Pensiamo al campo di calcio, che è 50%, quindi come se fossero 6 campi. Essendo una città, qui non è che si può tutelare, perché uno ha la visibilità e la visione del territorio. No, certo, perché in mezzo ci sono di quella della stanza. In mezzo ci sono le rovine, ci sono tutti gli altri. Ci sono proprio le case, significa che se uno sta in un ambiente già non può garantire nell'altro. Sì. Allora, questa è una cosa che il Ministero dovrebbe anche agire a determinare. Ma voi che cosa chiedete? Di essere persone o che cosa? Allora, noi chiediamo che ci siano più persone, e in mancanza di questo noi diciamo di far pagare la gente in proporzione a quello che rende, come succede nelle aziende private. No, scusi, di far pagare di più ai lavoratori, come nelle in aziende private. Io bravo, io produco di più, tu mi paghi di più. Scusi, aspetti Antonio, come la misurerebbe lei questa produzione del dipendente? Allora, questa produzione non la voglio misurare io, perché io ho pure io i miei parametri, però questa è una situazione che dovrebbe fare il ministero. Se la sovrintendenza, le faccio un riferimento attuale, ha aperto 10 domus grazie all'utilizzo dei giovani assunti tramite l'Avet. E ogni 3 persone di questo garantiscono la vigilanza per ogni domus, ovviamente a turno, e allora che cosa avviene? Scusa, Antonio, ci siamo persi. Se si è perso lei, si figuri noi. No, non mi sono perso io, perché da questo sto andando a un convegno e in questo momento praticamente si è arrivato un amico. Allora ripartiamo. Voi dite siete troppo pochi per gestire e per garantire la sicurezza in tutti questi ettari, e questo è il punto. Però mi faccio aspetti un attimo, Antonio. Il sovrintendente Osanna ha detto che ha assunto 100 persone da quando c'è lui, quindi più persone che lavorano. È vero o non è vero? Allora, assolutamente in parte. È vero in parte, ma stiamo parlando della vigilanza, stiamo parlando di tecnici e stiamo parlando di altro, stiamo parlando di persone che tra l'altro costano di più di quanto costa un dipendente pubblico. Tra l'altro io non capisco perché sta spendendo via la possibilità di assumere tramite queste società in house, dove un dipendente costa il 40% di più di un dipendente pubblico, cioè, non si configura, si configura al contrario. Spending review. Senta, cioè, ma lei, io ho capito che voi avete fatto questa assemblea perché dovete gestire un lavoro che per voi è ingestibile, è troppo duro. Ma il suo lavoro a cosa lo paragonerebbe? Al lavoro di un infermiere, di un operaio, di una guardia notturna? Allora. Aspetti, Antonio, dobbiamo fare la pubblicità. Resti con noi, torniamo tra. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo in diretta. Buonasera di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, in compagnia di Antonio Pepex, segretario CISL di Pompei, che ci sta parlando un po' di come funziona il lavoro a Pompei e anche di questa benedetta assemblea di lavoratori. Avevate chiesto il permesso per fare questa assemblea? Certamente, era tutto in regola. Quando l'avevate chiesto? Quanto tempo prima? Il 16 luglio. Quindi quanti giorni prima? Abbiamo una settimana? Ricevuto la, più. Una settimana. E abbiamo ricevuto l'autorizzazione, che poi ho inviato a tutti alle redazioni stampa. L'abbiamo ricevuta all'utilizzo della sala dell'auditorium in data 22 luglio da parte dell'amministrazione. E come mai si sono presentati i pullman dei turisti lo stesso? Perché non c'è stata un'informazione, una buona informazione. Ma voi avreste preferito che ci fosse stata più informazione? Certamente sì, per non creare disagi, insomma, certo, voglio dire, e anche il danno d'immagine per l'Italia. Questi ci pensano da soli loro, non li dobbiamo aiutare noi. Chi? Non ho capito, chi è che ci pensa? Se ci pensano direttamente loro. Ma loro chi? Scusi Antonio, loro chi? Allora, non ho capito, chi ci pensa direttamente? Cioè, ci sono altre soluzioni che neanche lei dà una bella immagine, Antonio, perché sa cosa scrivono, io glielo dico perché è doveroso, gli ascoltatori all'SMS, naturalmente dietro l'anonimato, però scrivono cose: questo sindacalista andrebbe mandato in miniera ad asfaltare le strade, oppure licenziamoli tutti, oppure arriveranno i droni a sostituirli, cioè gli oggetti volanti, no? con le telecamere che vedono tutto dall'alto. Cioè, in molti pensano che non sia un lavoro così faticoso fare guardiano a Pompei. Posso dire una cosa? Ultimamente ci sta una corsa a dare ragione a chi ha il potere in mano, che è, si sta verificando l'esatto contrario di quello che succedeva una volta. Una volta erano tutti quanti in difesa dei diritti dei cittadini, dei lavoratori italiani. Oggi invece che cosa avviene? Che quando fai una rivendicazione per avere dei diritti, anziché ascolta Antonio, ma magari pensano semplicemente che lei dei diritti ce li abbia già, e che non è giustificata questa protesta da parte vostra. In Italia è quello adeguarsi. C'è tanta gente senza lavoro, Antonio. C'è tanta gente senza lavoro. Che stanno meglio di noi, non guardiamo dietro, guardiamo in avanti. Noi ci vogliamo sempre uguale al peggio. Allora, se noi guardiamo a quelli che stanno meglio di noi, allora mettiamoci a confronto, mettiamo i lavoratori che lavorano a Pompei, al Colosseo, agli uffici, in tutti i siti archeologici e museali d'Italia. Però lei, no, scusi, non crede che in un momento... Sì, no, sta parlando, ma rispondo su quello che ha detto lei. Non crede che in un momento di crisi come quello attuale, con la disoccupazione a oltre il 10%, valga la pena anche, come dire, pensarci prima di fare delle rivendicazioni di diritti che per altri possono sembrare lunari, no? Perché magari avere uno stipendio fisso alla fine del mese per fare un lavoro che può essere anche bello, interessante, come fare la guardia a Pompei, è un sogno, è un miraggio. Quindi no, questo non pensa che in questo momento potrebbe esserci sto ragionamento. Ma no, non gliene frega niente degli altri. Ma guardi, non lottare oggi è significare per dei diritti, significa farti cadere le braccia a chi crede nello Stato, nelle istituzioni, perché oggi se abbiamo dei diritti li dobbiamo far valere, e se questi venissero rispettati non ma ci qual è? Io non ho capito quali sono i diritti che vi mancano a voi. Mi dice una cosa, per esempio, mi dica una cosa, quante ore lavora lei al giorno? Quante ore fa? Allora, io 7 ore e 12, perché? No, per capire dove sono i diritti che mancano. Allora, 7 ore e 12. Allora, lo stipendio glielo posso chiedere, quanto guadagna di stipendio? 1200 con la trattenuta, 1150. 1150 euro. Ho capito bene, ci sono anche degli straordinari legati ai turni, agli extra. Ci sono delle posizioni di lavoro non pagate da dicembre scorso che ruote intorno ai 250 euro pro capite. Cioè vi devono essere pagati intorno quanto? Da dicembre scorso 250 euro nette pro capite, tutti quelli della vigilanza, e stiamo sui 60-70 euro al mese per quelli che non fanno, svolgono attività di vigilanza, sempre da dicembre. Cioè, 250 euro netti nel periodo dei 6 mesi. Per quelli che fanno turni festivi, pomeridiani e notturni. Quanti giorni alla settimana lei fa? 5, 6? 5? Normalmente io ne faccio 5, però si ruota comunque in continuazione su tutti i turni. Tutti i giorni. Per tutti quelli i giorni che fanno la vigilanza, loro fanno il lavoro su 7 giorni su 7. Sì. Perché come le dicevo. Ma prima, lei ha figli, Antonio? Lei ha figli? Solamente 3. Insomma. E auspicherebbe che suo figlio faccia il suo stesso lavoro o vorrebbe fargli fare qualcosa? Io ho preferito che facessero, che si pigliassero delle lauree, che per poter lavorare pure in proprio. Un architetto, una delle lauree in architettura, e un architetto in economia e un altro solamente informatica. Ah, c'ha 3 figli laureati? No, solamente 2 su 3. 2 su 3, l'altro beh, complimenti. L'altro è specializzato, oltre il diploma, insomma. Complimenti. Però lei è riuscito col suo stipendio a farla. Dalle nostre parti li mandiamo a scuola. No, dico, però lei col suo stipendio è riuscito comunque a mantenere una famiglia. Sì, è stato bravo. Quando c'era il pentapartito, sì. I miei figli sono grandi, il più piccolo di 30 anni. Ah, lei dice ai bei tempi si poteva nei fare. Tempi questo. In cui praticamente questi invece di piangere facevano le cose al governo. Invece quelli di oggi? No, quando si candidano tutti quanti hanno le soluzioni in tasca. Quando arrivano lì e si siedono le. Però quelli sono gli anni in cui si è creato il debito pubblico, E questo quelli io lì. Cioè, ha capito cosa pensa l'ascoltatore? Pensa questo, Antonio. Se glielo dico. Rubato, se li pigliassero da loro i soldi. Sì. Noi ci hanno preso per un bancomat, ogni tanto insomma ci chiedono dei soldi, perché a noi quando ci arriva qualche bolletta mica ci dicono ce la deve pagare fra 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi. Loro pretendono da subito insomma il pagamento. Antonio, adesso c'è in discussione una proposta di legge per limitare lo sciopero, no? Per fare un referendum tra i lavoratori. Se non passa nella maggioranza dei lavoratori non si può più fare sciopero. È una proposta di legge. Che ne pensa? Ma Io che ne penso? Io ragiono dalla parte dei cittadini, dalla parte dei lavoratori, come ne posso pensare? Anziché risolvere i problemi, questi vogliono fare però, scusi, processare dalla parte rendica. Dei cittadini c'è un conflitto di interessi, perché i cittadini utenti di Pompei è un conto, e il cittadino è dipendente, il lavoratore è un altro. Allora, aspetta un attimo, i cittadini sono pure il lavoratore e pure quell'altro. Noi abbiamo un problema, noi abbiamo un piccolo problema. Quando parliamo di cittadini, lo siamo pure noi, paghiamo tutte le tasse, quando siamo fuori facciamo tutte le cose. Per quanto riguarda Pompei, paradossalmente nella giornata che abbiamo fatto quell'ora e mezza di chiusura, che cosa è avvenuto? Che abbiamo visto il report di incassi e di numeri di visitatori più alto degli altri giorni. Vabbè, perché avete chiuso per due ore, il problema è stato far aspettare due ore le persone sotto il sole, è questo il problema, Antonio. Allora, grazie Antonio. No, è una cosa importante. No, abbiamo capito. No, c'è stato un fatto che il ministero chiude due ore ogni mese gli scavi, da mezzogiorno alle due, tutte le domeniche, la prima domenica del mese. Sì, però questa è una cosa programmata, quello che avete fatto voi è stata una cosa che è arrivata inattesa, anche se lei dice che l'avete comunicato 10 giorni prima, quindi questo in effetti, come dire, cioè è a vostra discolpa. Grazie Antonio, buona serata. Antonio Pepe, ex segretario della CISL di Pompei. 800 24 00 24, titoli TG, cosa abbiamo? TG la 7. Il Fondo Monetario gela l'Italia. L'economia sta riemergendo dalla recessione, ma ci vorranno 20 anni per tornare ai livelli precedenti alla crisi, con la disoccupazione, per quanto riguarda il livello di lavoro ovviamente, la disoccupazione ancora alta. Dal nostro mondo del lavoro arriva qualche segnale di ripresa a giugno. Sta suscitando forti polemiche l'operazione tagli alla sanità. Le regioni insorgono, dicono che così salta l'intero sistema della sanità pubblica, ma il ministro Lorenzin smentisce che ci siano tagli per 10 miliardi, parla solo di riduzione di sprechi con risparmi da reinvestire sempre nello stesso settore sanitario. Per il ministro della giustizia Orlando non c'è alcuna volontà di mettere il bavaglio alla stampa. Nella riforma del processo penale un emendamento del PD esclude la punibilità dei giornalisti che registrano di nascosto per diritto di cronaca. Sarà punito invece chi vuole recar danno alla reputazione e all'immagine di altri. Tutti i mercati europei in grave perdita dopo il crollo della borsa di Shanghai, che ha perso l'8,5% per la bolla speculativa cinese, ma soprattutto per il timore di una frenata dell'economia di Pechino. Milano è la peggiore tra le piazze europee, -3%. Tensione alle stelle in Medio Oriente dopo gli incidenti di ieri dentro fuori la moschea di Al-Aqsa, sulla spianata delle moschee di Gerusalemme, dove la polizia israeliana ha fatto irruzione scontrandosi con gruppi di giovani palestinesi. Per discutere la vicenda è stata convocata una riunione d'emergenza dei ministri degli esteri della Lega Araba il 5 agosto. C'è una svolta nella guerra contro il califfato. La NATO, con il supporto della Turchia, creerà nella Siria settentrionale una zona liberata dalla presenza delle milizie dello Stato Islamico. Ancora polemiche per Ankara, che oltre a quelle dell'ISIS continua a colpire anche le postazioni in Iraq e anche in Siria dei curdi del PKK. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Di nuovo buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 800 24 00 24, abbiamo Alessandro che ci chiama da Verona. Buonasera. Buonasera, grazie. La sentiamo forte e chiaro, Alessandro. Sono contento di parlare con lei. Allora, io volevo intervenire sulle scuole. Sì. C'è un problema sulla linea con Alessandro, mi dispiace, lo riprendiamo, ci proviamo almeno, forse entrate in una galleria o qualcosa del genere, in auto sicuro. Sebastian da Treviso, buonasera. Sì, buonasera a lei e bentornato intanto. Grazie, sì. Io volevo parlare per il discorso quello dei vincoli di mandato per i vari parlamentari. Sì. Che io non sono molto d'accordo di questo vincolo di mandato, perché secondo me la politica è abbastanza fluida, cioè quello che era due anni fa non è detto che sia oggi e non è detto che sia domani, come esigenze e come anche necessità dei cittadini, non tanto della politica quanto proprio dei cittadini. Il problema secondo me è che alla fine del mandato non c'è una corretta possibilità di noi cittadini di votare e di premiare chi ha fatto quello che noi riteniamo giusto o quello che però riteniamo sbagliato. Però ci sono le elezioni successive nelle quali molti poi si ricandidano e oddio, adesso col sistema elettorale che c'era adesso non si potevano esprimere delle preferenze con collegi non uninominali, quindi esatto, di fatto era impossibile esprimere una scelta, un giudizio sulla persona, perché viene lì, io devo accettarla e punto e basta, non posso giudicare con il mio voto una persona, ma giudicherò solo il partito fino a... Però scusi, mi dica una cosa a favore di questa fluidità, come l'ha definita lei, cioè una cosa a favore del fatto che è giusto che uno cambi partito, perché me lo dica lei, perché è giusto? Ma ad esempio ci sono stati dei partiti che hanno cambiato segretario, quindi non è detto che anche la linea politica del partito sia la stessa di 2 anni fa, di 3 anni fa. Quando vengono fatte i programmi elettorali sono 2 anni prima, 1 anno prima delle elezioni, adesso sono passati 2 anni, quindi vuol dire un programma elettorale di 3 anni fa non so quanto sia inerente alla nostra situazione economica, politica e sociale, o magari anche partiti che con una votazione interna decidono... Cioè lei vede nei cosiddetti transfughi persone che comunque cercano di, non so come dire, di salvare i principi o le origini, lo spirito delle origini dei programmi elettorali, dei partiti che poi vengono stravolti in corso d'opera. Sì, ma non solo, cioè, il parlamentare non deve difendere il partito, ma deve difendere la sua idea e l'idea la libertà di coscienza per l'ordinamento italiano. Sì, certo, questo lo sappiamo. E quindi anche appunto è proprio questo che, vincolo di mandato. Sì, è proprio a questo che qualcuno vorrebbe mettere un freno in qualche modo, perché si ha la sensazione, diciamo, ma infatti sono d'accordo, suffragata da diversi elementi oggettivi, che ci sia un'esagerazione di questi cambi di casacca, è un opportunismo, un trasformismo che non giova poi al corretto funzionamento, insomma, del Parlamento. Comunque, Sebastian, grazie anche a lei per questo intervento su questo argomento. Andiamo con Paola da Torino. Eccomi, buonasera. Grazie dell'ospitalità. Grazie a lei per aver chiamato. Paola, su cosa voleva intervenire? Ma io dunque sono archeologa e guida turistica e collaboro esternamente con le soprintendenze da 30 anni. Sì. Ogni assemblea di Pompei mi aspetto tutto il seguito di polemiche che infatti adesso vediamo. Però devo dire che certo, con difficoltà, con problemi, però vedo questo povero ministero arrancare sempre di più e non per demerito, perché francamente parliamo del personale di custodia, perché poi sarebbe anche da aprire un'enorme parentesi sulla difficoltà dei tecnici, ma il personale di custodia ha responsabilità enormi, questo è vero, perché hanno, finché tutto va bene, ma quando qualcuno mai tocca si fa male, succede qualcosa, i danni sono enormi e se ne risponde personalmente. Va detto che Pompei è un posto molto particolare, perché è un sito archeologico, l'ha detto Antonio Pepe, l'unica cosa forse su cui concordavamo nell'intervista, 66 ettari, è enorme, è un posto enorme, con tutti i problemi di crolli che ci sono stati, anche di furti, quindi diciamo che per controllarlo davvero ci vorrebbero, insomma, migliaia di persone forse. Ma cosa si può fare, Paola, allora, visto che lei è archeologa e guida? Guardi, intanto appunto volevo semplicemente ancora solo ribadire il fatto che quando c'è un'assemblea sindacale, le assemblee sindacali hanno una tempistica ben scandita dalla normativa e come ha ricordato il sindacalista, questa è stata rispettata. Capita anche a noi, io faccio molta didattica museale, molti adulti, gruppi di adulti, e si viene avvisati regolarmente ed è normale che ci sia un'assemblea. Ma volevo insistere su questo argomento. Adesso Pompei, o come qualunque altro sito di gestione statale, eventualmente anche sbagliassero, è statale, di tutti noi, articolo 9 della Costituzione, patrimonio culturale, quindi possiamo discuterne. Io ho solo paura che tutte queste discussioni vadano poi in un'unica direzione, che sia verso la privatizzazione, che non è garanzia di miglioramento della gestione. Non faccio esempi concreti, ma teorici sì. lo stesso tipo di patrimonio. Sì, no, ho capito Paola, però c'è un'esasperazione da parte della gente che diciamo paga le tasse e pretende in cambio dei servizi efficienti, e quando vede certe cose, ora magari non l'assemblea di Pompei, ma altre cose che possono riguardare Roma, ne abbiamo parlato anche questa sera, insomma non la manda giù, no? Perché anche quella è pubblicità negativa nei confronti del servizio pubblico, quando le cose non funzionano. Certo, però perché non funzionano? È un ministero che ha custodi in turni di vigilanza su 3 turni, fanno le notti, hanno aree enormi, e io faccio il parallelo anche con l'area dove prevalentemente lavoro, pur senza anche trascurare il centro-sud, dove spesso mi reco anche per altri motivi professionali. È garantito un livello di tutela altissimo, molti dei custodi molto spesso sono laureati e dottorati. Sì. Ma è vero, lei che è una guida, è vero che sono in pochi lì per fare il lavoro che fanno? Ce ne vorrebbero di più? Assolutamente. Però poi il prezzo dovrebbe essere più alto, il prezzo del biglietto, non se ne esce. Ma può anche darsi, però io vorrei insistere sul fatto che la cultura, come la sanità e la scuola, è poi un servizio per la nazione che fa parte del patrimonio di tutti noi. Cioè, se entriamo nella logica della redditività, non se ne esce. Neanche il Louvre ha un congruo guadagno dai biglietti. Grazie Paola, va bene, abbiamo capito benissimo, grazie, buona serata. Voglio vivere così. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Prendere la propria vita e farne quello che più ci piace, cambiarla, stravolgerla e insomma fare qualcosa di diverso. Un giorno dire voglio vivere così, è quello che ha fatto negli ultimi tempi sicuramente della sua vita Andrea Caschetto, Globetrotter. Buonasera, ciao Andrea. Non c'è. Ha annunciato così con tanto di musica in pompa magna. C'è Andrea Caschetto? Non parla. Andrea? Sei in onda su Radio 24? Che succede? Abbiamo ripreso? Andrea Caschetto? Buonasera? Ci sei? No, non c'è. Ah, non c'è. È caduta la linea. Allora, basta dirselo. Andiamo con gli ascoltatori. Mi sa che a questo punto Andrea Caschetto lo sentiremo domani. Però me la fate dire almeno la storia. Sì, perché è bellissima. Anche se lo sentiamo domani. Lui è un ragazzo che ha girato negli ultimi mesi. Aspetta che c'ho la cifra qua da qualche parte. 4.142 incontri con bambini che stanno negli orfanatrofi. Lui è un ragazzo siciliano e ha un'energia straordinaria, lo vedete nelle foto. Sembra una storia triste, ma è una storia di grande energia e di grande vitalità. Ha deciso di andare a regalare sorrisi a tutte le parti, si mette la pallina rossa sul naso, fa il clown e va a regalare un sorriso ai bambini dell'orfanatrofi di tutto il mondo. Ce l'abbiamo? Andrea? Sì, eccomi qua, ciao Alessio. Oh, che bello sentirti. Allora, io ho detto 4.142 incontri, in quanti paesi del mondo diversi? Allora, sì, sono partito a febbraio, più o meno un 14 paesi, se non mi ricordo male, in questo progetto, più o tutti quelli in passato nella mia vita, che sono stato circa 60-35 paesi. 60 paesi? Circa 60 paesi, non sono pochi, non sono assolutamente pochi. Di più, 70 paesi, scusa, ma sentiamo malissimo, mi sa che speriamo di riuscire a portarla in fondo questa intervista. Cosa ti ha mosso, Andrea, a fare questa cosa che insomma, è originale abbastanza, perché di modi per passare il tempo ce ne sono tanti, però girare per orfanatrofi non è proprio una cosa che viene in mente a chiunque. No, niente, non ce la facciamo, non ci sente. Sentiamo la musica intanto. Senti com'è bella. Allora chiudiamo con un po' di ascoltatori. Arturo da Prato, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Devo dire alcune cose a proposito del cambio di casacca dei nostri parlamentari, che ormai ha raggiunto, anch'io ritengo che sia una cosa immorale e vergognosa questo continuo cambio di casacca. Tra l'altro i cambi di casacca mi sembra che avvengano sempre per aggregarsi a carro di chi governa. Insomma, prima quando c'era Berlusconi cambiava in casacca per sorreggere Berlusconi, adesso sì, invece cambia in casacca tutti per sorreggere il governo in carica. Una cosa un po' sconcia in maniera trasversale. Ritengo che però la questione non possa essere risolta con una legge, come diceva l'ascoltatore, che se uno va via da un gruppo ci deve essere una legge che gli impone di mettersi o viene dimissionato. E allora come potremmo risolverla? Perché perché volevo dire questo. Io credo la questione va risolta con un codice d'autoregolamentazione a cui tutti i partiti dovrebbero attenersi, anche perché l'alternativa sarebbe quella che in questo caso la fase successiva sarebbe che i parlamentari non possono votare contrariamente a quello che prevede. Sì. No, ma io ho detto che non ero in disaccordo, ma che probabilmente ci sono degli inghippi che andrebbero superati. Quello che non vedo però è una proposta diversa per evitare il trasformismo che c'è, no, diciamocelo, perché ha raggiunto dei livelli assurdi. Come si fa in alternativa? Lei come fa? Il codice di autoregolamentazione, come c'è in Spagna? È un codice di autoregolamentazione dove tutti i partiti sono loro che impediscono questi cambi di casacca, sostanzialmente. Non puoi impedire in Parlamento ai parlamentari di votare secondo coscienza, ma non devi accettare i cambi di casacca. Uno è stato eletto e rimane nel gruppo, va nel gruppo misto, ma non un gruppo di maggioranza, sostanzialmente rimane fuori. Va bene, questa è la proposta di Arturo. Grazie, buona serata. Altrettanto anche buona a voi. Serata. Abbiamo chi abbiamo? Alessandro da Verona, l'ho chiamato anche prima, ma era sparito. C'è adesso? No, visto, non c'era. Me lo sentivo. Assunta da Roma. Assunta? Sì, pronta. Eccola qua, prego. Dunque, io non sono assolutamente d'accordo con l'archeologa che ha parlato pochi minuti fa, che non so veramente in che mondo viva. In un mondo, tutto rosa, un po' ideale, rosa. Forse un po' ideale, sì, molto ideale, sì. Molto ideale. In realtà, quando io sento, è bello avere degli ideali, coltivarli, cioè, certo, però bisogna certo. Anche fare dei bagni, bisogna averli, però dei bagni di realtà, bisogna fare. Purtroppo, sì. Quando Pepe si autodefinisce un lavoratore e definisce lavoratori la categoria dei custodi, in particolare di Pompei, io non so se ridere o arrabbiarmi. Assunta, però quello è, cioè quello la mattina si alza, si mette la casacca e va a fare la guardia a Pompei. Certo, però voglio dire, sì. Non sanno assolutamente che cosa significhi lavorare. Questi signori fanno malissimo e pochissimo, devo dire. Sì. No, scusi un attimo, Assunta, circostanziamo le affermazioni. E lei pochissimo. Sì, ho capito. Io ho detto che c'è dell'esasperazione in giro, è giusto darne conto. Ma lei c'è stata, per esempio, a Pompei, li conosce queste guardie? Perché sennò di cosa stavamo parlando? Per sentito dire? Parlo con cognizione di causa. C'è stata a Pompei, le posso chiedere? Cioè, c'è stata a Pompei? Certo che ci sono stata. Ah, ecco, no, certo. Io per esempio non ci sono stata e quindi non lo so. L'ho sentito, vabbè, quando ci andrà, ma mi renderò conto deve essere anch'io. Come normale cittadino, non come giornalista, vedrà. Certo. Allora, lei tenga presente che il Ministero dei Beni Culturali è ostaggio, e sono ormai decenni da quando fosse nato, è ostaggio delle organizzazioni sindacali, sia confederali sia autonome, le quali gestiscono soldi, quindi debito pubblico, e voti. Devo chiudere, grazie, buona serata Assunta. Io ringrazio Leonardo Sirigato, Cristian Goldoni, Riccardo Buccero in redazione questa sera, Paolo Colleoni in regia. Ci ritroviamo tutti domani sera 18, 20 e 30 con Si può fare. Ciao da Alessio Maurizi, buona serata, ciao.